Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. Buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola. Ciao Matteo. Ciao Federico, buona domenica. Mi piace sempre salutare anche per te. Sai, è proprio l'inizio, così un po' l'onda dell'entusiasmo. Siamo qua come ogni domenica per parlare di padri e ai padri, con questo Padri Eterni. Sì, titolo altosonante, ce lo dicono, però è anche insomma un po' un taglio ironico di questi due padri, questa strana commistione tra il padre cosiddetto perfetto, Matteo, e il padre non solo cosiddetto imperfetto, che sono io, e cerchiamo un po' di toccare tutte le tematiche legate ai nuovi padri. Il tema di oggi è un bel tema, perché così tocchiamo il reale e il virtuale. Ah, è un tema che sento molto vicino, tra l'altro, perché come ben sai io con i social e con il virtuale ho un rapporto molto stretto. Tra l'altro è buffo perché quasi tutti usano virtuale come contrario di reale, in realtà ne è solo un aspetto, no? I social mostrano esattamente questo. Padri e figli con i social network come campo comune, no? Quindi non solo stai meno sullo smartphone, ma anche cosa stai facendo, a chi stai scrivendo, su che sito sei, e non solo, ecco i papà che comunque vanno a raccontare, a pubblicare qualche foto dei propri figli, lo faccio anch'io, lo ammetto, no? Succede, e un attimo dopo arriva anche la sgridata in diretta o via WhatsApp del figlio stesso che dice: ma papà, anche no questa foto, grazie, i miei amici mi stanno guardando. Toccheremo il tema come sempre da tanti punti di vista diversi, ma partiamo cercando di capire come sono questi padri in rete, e lo facciamo con un'amica. Diamo il benvenuto a Selvaggia Lucarelli. Ciao Selvaggia. Ciao Selvaggia. Beh, è un tema delicato quello dei social network e del rapporto rispetto ai figli in generale, e poi ci sono i padri. Come sono questi padri in rete? Fa ridere pensare di essere esperta di padri. Diciamo che sono esperta un po' di tutto il genere umano che naviga nella rete, quindi qualsiasi categoria tu voglia analizzare io ne ho viste di cotte crude. Comunque i padri, allora, ci sono dei padri interessanti ed è istruttivo leggere quello che raccontano. Ora, a parte Matteo, che è un luminare, io direi, ne conosco anche altri e mi fanno molto molto ridere, alle volte anche riflettere su quanto il ruolo del padre sia cambiato negli anni. E poi ci sono i padri sfigati, mi dispiace doverlo dire, ma è pieno di individui di sesso maschile con famiglie magari anche numerose che mettono la fotina, magari profilo oppure col figlio piccolo in braccio o con la bambina bionda con le treccine, e poi si comportano come il bimbo minchia di 15 anni che escono da YouTube e vengono a chiederti la fotina. Ecco. Diciamo, e quello è chiaramente, quella è un'esca inquietante, io direi, e anche piuttosto squallida, perché poi alla fine, no, tu ti mascheri da uomo affidabile, da uomo, come dire, mieloso e rassicurante, e poi in realtà sei uno dei tanti che passa il tempo sul web ad adescare ragazze, donne, eccetera. Ora, non ci sarebbe niente di male, non è che io sia qui a fare la moralista dei noantri, però fallo senza mettere la fotina dei tuoi figli, cioè senza esporli, no, poi al giudizio di chi è un po' sgamata come me, che dice: ma guarda te sto sfigato, cioè, espone pure i figli piccoli a tutto questo. Ecco, tutto a me fa sempre molto ridere, Selvaggia, questa cosa di usare i figli come status symbol, no? per esprimere questa immagine di rassicurante tenerezza nelle foto. Sì. E mi viene sempre in mente quella vecchia storia, no? Di quando si diceva che se vuoi rimorchiare devi andare al parco con il cane. Sì. Cioè, il mio dog. Ecco, esatto, è una cosa analoga. No, ma e poi adesso, al di là di questo, al di là delle foto, al di là degli approcci, si spera spesso garbati, tu sperimenti, no, anche un lato più deteriore del web, quindi diciamo gli insulti che ricevi, anche, certo, no? Ecco. Certo. Secondo te questi padri, appunto, no, con la fotina della figlia, eccetera, che poi ti si rivolgono anche con un determinato linguaggio, quale messaggio sono convinti di trasmettere alle loro figlie? Cioè, non si rendono conto in qualche modo che stanno alimentando e costruendo, contribuendo a costruire un mondo di cui poi subiranno le conseguenze anche le loro figlie? Sì, c'è proprio una dissociazione, cioè da una parte una sorta di bipolarismo 2.0 per cui non ci si rende conto che c'è un altro sé che sta facendo delle cose che nella vita di tutti i giorni non farebbe mai, io no, direi. E dall'altra c'è una totale proprio inconsapevolezza del luogo che si sta frequentando. Tu prima dicevi il virtuale non esiste, su un altro aspetto del reale, questo poi è fondamentalmente il punto, cioè si dimenticano anche di avere una foto con l'immagine del figlio dietro, cioè pensano in quel momento di essere in una realtà parallela, cioè pensano di essere, che non so, a Gotham City e di essere lì in un mondo in cui tutto quello che vale nella realtà non vale lì, quindi i figli non ce l'hanno manco più da una parte, cioè si dimenticano di avere la foto che certifica il loro status di padre e dicono cose che chiaramente col figlio in braccio, perché quella, no, è la situazione nella realtà, se la vogliamo definire così, sarebbe quella, cioè tu col tuo figlio in braccio mi stai dicendo, non so, puttana, ecco, cioè lo faresti nella vita? Certo. Mm-hmm. No, e invece lo fai, per, certo. Anche proprio, no, per in qualche modo adeguarti al contesto e alla situazione, no, loro lo dimenticano e lo rimuovono completamente, tant'è che io spesso quando mi succede che uomini con foto di figli eccetera mi offendono, prendo, faccio la foto, vado a vedere chi è la compagna, chi è la moglie e gliela mando, ecco, dico, e chiudi il cerchio, insomma. Sì, io su questo sono veramente infame, come dire. Beh, ma questa è la maniera migliore, no? Perché attraverso questo feedback in realtà il cerchio si chiude e si ritorna a quello che dicevamo, sì, no? Che il virtuale non è il contrario del reale. Cioè, adesso farò l'unica citazione colta, Federico, che farò in tutta la stagione di Padri Eterni. Se non ricordo male, virtuale deriva dal latino vir, che significa uomo. Quindi anche sulla rete le persone dovrebbero sempre essere al centro. Se tu non ti dimentichi questo, vai sempre da Dio. Per certi versi è un reale, è una realtà quasi amplificata, perché se io ti offendo nella realtà, probabilmente siamo io e te al bar o in strada, se io ti offendo sul web, cioè lo faccio davanti a milioni di persone, quindi ha un effetto ancora più, no? Devastante. Assolutamente. C'è una platea più vasta. Selvaggio, un'ultima domanda, parlando di genitori, non solo di padri in questo caso, i social network secondo te sono comunque una opportunità, ma soprattutto per noi genitori magari non così presenti, per comunque esserci in un modo diverso, o è un alibi questo? Io direi per capire qualcosa di più, non per esserci, perché alla fine bisogna esserci quando si apre la porta e si fanno due chiacchiere sul divano. Io ogni tanto guardo il telefono di mio figlio, lui lo sa che lo faccio, che monitoro, perché ci sono delle cose che ci sfuggono sempre, e finché ci sfuggono, quando hanno 30 anni e sono assolutamente, come dire, no, in grado di gestire la loro vita, oh cavoli loro, pazienza, a quell'età lì invece io credo che ci si debba impicciare, perché ci sono delle dinamiche che a loro sfuggono. Quindi ecco, io credo che questa possa essere un'occasione per capire qualcosa di più della vita dei nostri figli, di cosa succede e su cosa non sono preparati. Credo sia un'ottima dritta. Grazie davvero a Selvaggio Lucarelli. Ricordiamo il suo libro 10 piccoli infami, questo decalogo, una sorta di carrellata di personaggi che anche per pochi minuti l'hanno reso una persona peggiore. Ciao Selvaggio, grazie. Ciao, buona domenica. Ciao. Ci fermiamo, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con i Padri Eterni. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta. Padri Eterni. Io vi chiedo pardon, ma non seguo il bon ton. E che a cena devo avere sempre in mano un iPhone. Il cane di Chiara Ferragni al proprio di Vuitton. Ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John. Salvini sul suo blog ha scritto un post. Dice che se il macino all'oro in bocca si tratta di un rom. Sono un malato del risparmio, per questo faccio un po' di terapia di Groupon. Poi lo sai, non c'è un senso questo tempo che non dà il giusto. Preso quello che viviamo, ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei ma non posso, e ancora un'altra estate arriverà e compreremo un altro esame all'università e poi un tuffo nel mare nazional popolare, la voglia di cantare tanto non ci basterà. Fedez, J-Ax, vorrei ma non posto, per entrare nel vivo della questione, questo rapporto tra padri e figli quando ci sono i social network di mezzo. Pochi giorni fa è uscito un articolo molto duro in cui c'era una sorta di appello, era non postate foto dei vostri figli perché potete fare dei danni, ci sono ricadute negative sulla loro vita, ci sono anche dei rischiosi risvolti penali. Era un articolo che recensiva un libro appena uscito, si intitola Nasci, Cresci e Posta. C'è con noi uno degli autori che è Simone Cosimi ed ha scritto il libro insieme allo psicanalista Alberto Rossetti. Ciao Simone, buona domenica e benvenuto. Ciao a tutti, buongiorno. Ciao Simone. Ciao. Allora, un attacco diretto quello che avete fatto ai social? Sono così pericolosi? No, in realtà noi nel libro andiamo, come dire, più cauti, nel senso che non ci piace demonizzare. Noi dedichiamo una parte a, in quel caso si parlava in particolare di parenting, no? Sì. Cioè questa sorta di insistenza incredibile da parte dei genitori nella pubblicazione di immagini, video, altri dettagli, contenuti relativi ai figli, tanto che c'è gente che veramente non sembra non concepire altro modo, no? di avere una sua presenza sui social. E qui raccontiamo un po' di problematiche rispetto a questi aspetti qui, sia, come dicevate, penali, ci sono stati dei casi anche in Italia, c'è stata una 18enne austriaca che l'anno scorso ha citato i genitori una volta arrivata a 18 anni, e poi ci sono i numeri, mm-hmm, che comunque sono abbastanza inquietanti. Per esempio c'è uno studio inglese che racconta come entro i 5 anni di vita i bambini abbiano già in media circa 1000 contenuti che li riguardano pubblicati sui social, quindi 200 fra foto, video e altre cose all'anno pubblicati dai genitori, evidentemente, senza che, come dire, che i piccoli possano dirne alcunché. Stavo guardando il mio compagno di viaggio. Matteo, tu non pubblichi tante foto delle tue figlie, però sappiamo tutto ormai della loro vita, loro ti denunceranno a 18 anni, ci hai mai pensato a questa cosa? rischio denuncia. Ma io mi sono, come dire, mi sono tutelato in questo modo. Io sono piuttosto d'accordo con quello che dice Simone, cioè credo che sui social si debba prestare molta attenzione. Io non pubblico foto delle mie figlie. Quando mi è capitato di pubblicarle, quando ho ceduto la tentazione, le ho pubblicate sempre insieme a me e alla mia compagna, che so che è una cosa che sembra che possa non fare tanta differenza, invece ne fa. E io in particolar modo, diciamo che delle mie figlie scrivo, cioè faccio delle fotografie fatte di parole. Credo che però, come dire, nel momento in cui tu metti comunque il filtro letterario, la dinamica cambi già. Cioè io posto dei racconti, di fatto, è molto diverso dall'utilizzare l'immagine di una persona a sua insaputa. Nasci, Cresci e Posta, i social network sono pieni di bambini. Chi li protegge? Edito da Città Nuova. Come noi padri possiamo proteggere i nostri figli, Simone? Perché alla fine lì è un grande gioco i social network, ed è bello quando rimane un gioco, però insomma sappiamo, certo, quelli che sono i rischi reali. Come può essere veramente un campo di gioco comune e come proteggerli? La questione si divide in due ordini. Da una parte c'è l'aspetto proprio prettamente psicologico, no? Quindi occorre, come dire, sporcarsi le mani. Il primo modo di proteggere è conoscere. È impossibile accompagnare il proprio figlio o la propria figlia in una dimensione se non si conosce quella dimensione, ma questo appare fin troppo scontato, eppure spesso non lo è. Ti dico solo che nel libro noi citiamo il caso di un genitore che a un certo punto scopre che il proprio figlio ha un canale su YouTube in cui insegna violino, e lui ci racconta che non si rendeva conto di come potesse essere possibile possedere un canale, perché dal suo punto di vista grammaticalmente proprio il canale apparteneva alla vecchia TV. Quindi questo per dire quanto siamo lontani, no, spesso da queste questioni. Poi le indicazioni pratiche ce ne sono moltissime. Una di quelle, per esempio, che applica Matteo può andar bene, quindi in qualche modo dissimulare, non è detto che il tema vada censurato, no? Ce ne sono di pratiche, mai geolocalizzare, per esempio se li si accompagna a scuola, mai fare foto che coinvolgano uno sfondo troppo riconoscibile, il portone di una certa scuola, di una certa palestra in modo specifico. Di minimo consiglierei anche sempre la censura sul volto, almeno fino a una certa età, ma questo chiaramente ne va delle posizioni. E poi soprattutto occorre utilizzare gli strumenti che le varie piattaforme mettono a disposizione per la privacy. Facebook per esempio ha un album dei ricordi, che è una sorta di album specifico, in inglese si chiama scrapbook, dedicato ai bambini, dove i genitori possono mettere le foto creando una sorta di tag di fantasia per il figlio e concedere l'accesso esclusivamente a, non so, i parenti, gli amici più stretti, più fidati, i nonni che abitano in un'altra città o cose del genere. Quindi, alcuni strumenti, nonostante queste piattaforme si muovano in un territorio piuttosto scivoloso, ce ne sono uno, basta conoscervi e sporcarsi le mani, ecco. Non bisogna nemmeno demonizzare, come dire, la gioia, no? Naturale di un genitore, che chiaramente i figli sono la cosa più bella che ha, che vive, e quindi è anche normale, no? Questo desiderio di... bisogna farlo con misura, come tutte le cose, usando gli strumenti adeguati, le accortezze adeguate. E poi i figli crescono, diventano grandi. Al mio caso, se io metto una foto del mio 14enne o del mio 20enne su Facebook o su Instagram, un attimo dopo ricevo un messaggio che è toglila, togli il tag, oppure adesso anche prevengo, se vedono che sto facendo una foto, però prima me la fai vedere o me lo chiedi per favore, se puoi pubblicarla. Maura Manca, presidente dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza, ciao e buona domenica. Buona domenica a voi, grazie. Ciao Maura, ben trovata. Quindi questi adolescenti si lamentano quando noi padri pubblichiamo le loro foto sui social, vero? Assolutamente sì, perché molti ragazzi quello che ci dicono è che gli rovinano addirittura la reputazione, molti genitori, in quel modo, perché attraverso i social è la loro vetrina, è il loro modo di farsi vedere, e quindi di conseguenza se il genitore pubblica una foto che a loro non piace, che non è gradita, gli altri, gli amici possono andare a vederla, vengono usate anche come armi contro di loro, e quindi vengono esposti. Si lamentano tantissimo e si arrabbiano appunto con i genitori per questo. Ho però dei margini di trattativa, cioè io padre posso insistere o devo proprio lasciare perdere, devo fare 3 passi indietro e rinunciare a pubblicare questa foto con i miei figli? No, io direi rinunciare no, sicuramente non metterla senza che loro l'abbiano almeno o visionata o approvata o addirittura modificata, perché oggi i ragazzi prima di mettere una foto sui social le cambiano e le modificano con i programmi in modo tale che sembrano un pochino più belli. Diciamo che è un compromesso e si può fare in modo tale che il papà sia assolutamente contento di aver messo la foto del figlio e il figlio poi non si arrabbi con lui. Maura, questo discorso della web reputation, no, di cui tu hai parlato, è una questione nodale secondo me, perché il gap generazionale di cui si parlava, no, si mostra proprio anche qui. I genitori non si rendono conto che i figli tengono moltissimo le loro immagini che vengono rese pubbliche proprio perché comunicano attraverso questi canali. E io farei questo parallelismo: mia figlia certe volte con l'iPad mi fa delle fotografie mentre sono sul divano svaccato con la coperta, che dormo con la bocca aperta. Ecco, se lei avesse la possibilità di postare quelle foto per prendere in giro, a me non credo che farebbe piacere. Quindi anche i padri hanno una web reputation, tu dici. Ho capito. Maura, dacci 3 dritte anche invece a quali sono le attenzioni che dobbiamo tenere. Tu lavori tantissimo nel campo del cyberbullismo, lì i genitori e forse anche i padri nello specifico possono fare qualcosa? Non possono, devono fare qualcosa, perché i ragazzi sono abilissimi nel usare, diciamo, tutta una serie di funzioni dei social network, ma non conoscono bene le impostazioni della privacy, cosa che purtroppo anche tanti genitori. Quindi il ruolo del genitore è fargli capire che tutto ciò che viene pubblicato e tutto ciò che viene messo comunque non viene poi più cancellato e può essere utilizzato e riutilizzato da tutti. Quindi fargli rendere conto della potenziale pericolo anche di condivisioni o di utilizzo di quelle fotografie anche contro di loro. Non ci deve essere però, secondo me, un'invasione e un controllo eccessivo, ovviamente se sono piccolini sì, perché oggi 9, 10, 11 anni sono già sui social network, ecco, a quell'età sì, il genitore dovrebbe essere anche amico del figlio e monitorare le sue attività. Quando sono un pochino più grandi i ragazzi hanno bisogno della loro privacy, allora io direi lì più che controllo, invasione, direi condivisione, cioè spiegargli da adulti che lo possono utilizzare, che loro non entreranno a vedere ciò che pubblicano, però hanno bisogno di sapere il dialogo, di capire che cosa fanno, cosa non fanno e come lo gestiscono questo social. Adolescenzia.it, questo è il sito dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza. Maura Manca, tra l'altro ricordo che il 21 ottobre, quindi sabato prossimo, ci sarà una giornata importantissima proprio di studi e di riflessione su questi argomenti. Nella rete della rete, quali sono oggi i veri pericoli della rete, come fare per non rimanere incastrati, tutto ciò a Roma presso la Biblioteca Nazionale, dico bene Maura? Sì, ricordo Biblioteca bene. Nazionale. Perfetto. Centrale, sì. Grazie, buon lavoro, un grazie anche a grazie Simone a Cosimi. Voi. Ricordiamo Nasci, Cresci, Posta, i social sono pieni di bambini, chi li protegge? Città Nuova Editore, ciao Simone, buona domenica. Ciao. Buona domenica. Ci fermiamo, la pubblicità, poi ancora qua con i Padri Eterni. La natura di prima mano. Vi presenta Padri Eterni. Conta la voce più sottile di chi vorrebbe dire, ma sfuma nel rumore. Conta la testa ed il cappello, l'intelligenza e il bello, e chi li sa mischiare. Conta la firma e la parola di chi ne ha una sola e sa da che parte stare. Ancora buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola. Questo è Padri Eterni, Radio 24, una puntata dedicata al rapporto bello, controverso, stimolante, con confini labili e cangianti tra i padri e i social network. Beh, il prossimo ospite è un gran padre perché ha quattro figli, quindi insomma il diploma credo da padre ce l'abbia ben, ben impresso, ed è uno che naviga alla grande. E insomma è anche l'ultima paternità di fatto, l'ha subito espressa sui social network con una bellissima fotografia. Diamo il benvenuto a Francesco Facchinetti. Ciao Francesco. Ciao a tutti, come state? Noi molto bene, tu? Ciao Francesco. Molto bene. Incasinato con quattro figli, come avete detto voi prima. Fratello. Perché quando hai un figlio è uno, quando ne hai due sono 20, quando ne hai tre sono 40, quando ne hai quattro sono 1000. Per cui si moltiplicano in maniera esponenziale, quello è il problema. Tra l'altro, guarda, domanda diretta, ma i social network o lo smartphone aiuta nel creare connessioni familiari, anche quando magari si è a distanza o si è praticamente incasinate, sì? Ovviamente, io penso a FaceTime, ecco, non è propriamente un social network, però FaceTime mi permette di poter vedere mia figlia, di poter chiacchierare con lei, di potergli far vedere i suoi fratelli, visto che abita a 600 km di distanza da dove abitiamo noi, per cui ci sentiamo vicini anche grazie alla tecnologia. Ovviamente non è come stare proprio uno vicino all'altro a pochi centimetri, però quando ci sono situazioni di questo tipo, quindi famiglie allargate, la tecnologia serve molto. Certo. Una bimba che ho acquisito da mia moglie, che sta anche col papà in Brasile, quindi abita 9 ore d'aereo da dove siamo noi, anche lì grazie alla tecnologia possiamo parlarci, vederci e far dialogare anche i figli che ho con me a casa, con in questo caso mia che sta a Roma, o magari Lolli che ogni tanto sta a San Paolo dal padre. Certo, questa è la sfera privata, poi c'è la sfera pubblica. Prima di pubblicare una foto dei tuoi figli, quante volte ci pensi? Non ci penso molto, ed è un errore questo, tante volte non pensare molto alla foto che si sta pubblicando. Io lo faccio perché sono felice e contento di poter pubblicare appunto una foto di mio figlio e di poter raccontare la mia vita con i miei figli. E i social network servono a questo, ad amplificare uno stato d'animo, per cui mentre prima quando uno era felice tirava sul telefono, chiamava la mamma, la nonna, la zia, la cugina, guarda che bello, hai visto qua che cosa è successo, i social network ti danno la possibilità in un secondo di poter raccontare questa emozione. Dall'altra parte penso, siccome io lo faccio per i miei figli senza chiederglielo, a volte secondo me esagero, cioè me lo dico che se ci penso in maniera profonda forse non so se faccio la cosa giusta, ecco, e questo è il mio pensiero, è il pensiero che faccio tante volte. Io ho problemi in genere con questo concetto di privacy, quando ci viene venduto come questo doversi costantemente difendere dagli altri, no? In fondo, come ha ben detto Francesco, postare a volte, no, una foto dei propri figli insieme ai propri figli mentre si fa qualcosa è anche una condivisione di un momento di gioia. E del resto, se noi non diciamo o non mostriamo mai niente della nostra vita, come possiamo pretendere che lo facciano gli altri? E allora a questo punto sui social cosa ci stai a fare? La relazione con gli altri come la costruisci? Quindi direi che è chiaro che bisogna usare lo strumento con gli opportuni accorgimenti, come abbiamo detto prima, però va anche usato in maniera sana. Condividere la gioia mi pare una maniera sana. Francesco, tu sei anche un testimonial quotidiano di quanto il web possa essere un'opportunità, lo dici sempre, no? Il web è una prateria. Metti qualche paletto però ai tuoi figli sull'utilizzo dei social e di internet? Beh, sicuramente i miei figli non vanno sui social network o non vanno in internet senza essere in qualche modo seguiti dalla mamma o il papà o dai nonni o dai zii. Devo dire che come il mondo esterno, perché poi internet è, diciamo, è un'estensione del mondo, non è un mondo virtuale come tanti pensano, ma proprio un'estensione di questo mondo, è il mondo digitale, e internet ha i pro e i contro. Trovo che ci siano tanti pro, il fatto che per esempio mio figlio ami molto di più poter fruire di contenuti veri e reali rispetto a un cartone animato che vede nella televisione, perché mio figlio quando mi dice voglio vedere Peppa Pig non è il cartone animato di Peppa Pig, ma è un bambino che gioca con il pupazzo di Peppa Pig. Ed è interessante capire quanto, una volta che capiscono la differenza tra una cosa diciamo che non ha anima, che è esclusivamente bidimensionale, che è un'immagine della televisione, quindi che non ha quella terza dimensione di profondità, sia completamente diversa da un bambino invece che sta lì a giocare con Peppa Pig e ti fa sentire quelle emozioni che per un bambino sono importanti. Per cui i miei figli tutti hanno cancellato il cartone animato, non esiste il cartone animato. Quando parlano di cartone animato loro vogliono vedere Masha e Orso, cioè i bambini che giocano a Masha e Orso. E secondo me questo è molto interessante da studiare e da capire, quanto messi davanti al cartone animato di Masha e Orso, poi logico ogni tanto se lo guardano, però preferiscono vedere, quando dico voglio vedere il camion, voglio vedere il bambino che gioca con un camion e voglio vedere che cosa succede con questo camion. Infatti quando mi dicono questa generazione sono rincoglioniti, io vorrei raccontarvi la mia degenerazione. Cioè, noi veramente tornavamo a casa alle 2 di pomeriggio e dalle 2 alle 6 di sera c'erano solo cartoni animati, uno dopo l'altro. Confermo. E abbiamo avuto l'avvento vero delle console, cioè io so quando è nata la console, ovviamente essendo la novità più assoluta, noi ci rimanevamo davanti 100 ore al giorno, cioè reali, vere. Confermo, confermo. Adesso diciamo, uno si può gestire, conosce tutto e rispetto a quello che appunto il web ti può dare, ci sono dei casi in cui a me piace che mio figlio veda il bambino che gioca col camioncino e lo voglia fare anche lui dal vivo, ecco, che sia non solo una cosa passiva guardare qualcosa dentro uno schermo, ma sia una cosa anche che ti porti a fare un'attività. Grazie allora Francesco Facchinetti, un saluto a te e ai tuoi 4 figli in giro per il mondo. Ciao Francesco. Ciao. Grazie, ciao. Buona domenica, ciao. Ciao, ciao. Ciao a tutte e tutti. Allora, oggi sono tornato con questo nuovo video che è il tanto atteso Draw My Life. Sono nato il 14 luglio 2000 in un ospedale di Monza, dopo quasi più di 19 ore di parto. Mia mamma sì, ha sofferto molto per farmi nascere e oltretutto appena nato non ho fatto neanche mezzo pianto e di questo tutti sono rimasti molto colpiti. I miei genitori si chiamano Isabella e Davide e sono le persone più dolci di questo mondo. Purtroppo però, dopo qualche mese dalla mia nascita, decidono di chiudere la loro storia e così io rimasi da solo con mamma e la sua famiglia, che praticamente è la mia. La voce che state ascoltando è quella di Luciano Spinelli, muser e youtuber, una web star, centinaia di migliaia di visualizzazioni dei suoi video, a 17 anni, e in questa puntata in cui parliamo di social network e del rapporto tra padri e figli ci piaceva avere anche un figlio che tra l'altro è appunto una star del web. Ciao Luciano, benvenuto. Ciao, ciao, grazie mille. Ciao Luciano. Beh, insomma, stiamo parlando proprio del quanto mettersi in gioco, o meglio, quanto un padre può raccontare dei propri figli in rete. In questo video sei tu che racconti tutto della tua famiglia. Come te lo gestisci questo rapporto rispetto a tuo padre? Il fatto di essere una star del web ti ha creato problemi, perplessità nei suoi confronti? No, assolutamente, mio papà mi è sempre stato vicino in tutto quello che ho fatto e tutto quello che faccio tuttora. Mi ha sempre supportato, non è mai cambiato nulla, mi dice spesso che è molto contento e molto fiero di me, però fa sempre il papà, quindi non è mai cambiato nulla. Sì, però non ti ha messo qualche paletto, qualche confine, ogni tanto non, no? No, diciamo che ha lasciato che la mia creatività prendesse il volo, se così si può dire, e non mi ha mai messo nessun tipo di paletto se non che quello di non esagerare troppo con i social, perché usare troppo il telefono, usare troppo il computer o comunque internet può fare male. Bisogna sempre gestirla in modo adeguato, tutto quello che si utilizza, quindi anche appunto i social e il web. Luciano, domanda da 100 milioni, e la mamma? La mamma, anche con lei non è mai cambiato nulla. Mia mamma mi supporta, mi sostiene come mio papà, solo che non me lo dice spesso che sera di me, perché lei fa molto quella dura, no? Quella che sono la mamma, però quando me lo dice so che lo dice con il cuore, e so che mia mamma è molto contenta, anche se lei è quella un po' più che se la prende con me per tutto quello che faccio. Luciano, insomma, ti parliamo un po' ad esempio di una generazione, no? I tuoi coetanei si arrabbiano se i loro padri pubblicano loro fotografie, vero? Dipende, credo che dipenda proprio dal tipo di genitore che si ha davanti. Ci sono persone che non conoscono il web e quindi sono spaventate da questa cosa, e molto spesso hanno paura che i figli possano condividere appunto in rete delle cose che per loro, ai loro occhi, possono sembrare sbagliate, quando invece poi ci sono anche dei genitori che conoscono perfettamente il mondo del web e il mondo di internet e non hanno problemi, sanno benissimo che non esiste solo un lato negativo, ma esiste anche un lato positivo. Quindi per me dipende più che altro dai genitori. Insomma, questo è vero. Secondo te a un figlio quindi conviene dare qualche dritta ai genitori su come funzionano i social network? Certo, assolutamente, anche perché secondo me i social network possono servire tanto, hanno veramente una grande influenza su tanti aspetti e possono aiutare molto. Come sempre esiste sia bene che male in tutte le cose, quindi anche credo anche nei social e in internet, credo che ci sia del bene che del male. Luciano, senti, io avevo piacere di parlare con te del tuo libro, no? Insieme, certo, edito insieme da Rizzoli. Il tuo è un libro diario, sostanzialmente. La scrittura diaristica, tu parli delle tue esperienze di bullismo, delle cose che ti sono capitate, cioè ti ha aiutato a prendere distanza rispetto a questi avvenimenti, ti ha aiutato a esorcizzarli, ti ha aiutato a capirti meglio? Mi ha aiutato tantissimo, perché ho tenuto per tanti anni un diario, che era un diario fisico, che poi è diventato anche un diario sul web, che è appunto il mio canale YouTube. Quindi diciamo che tutto quello che io ho scritto nel tempo era quello che non dicevo di fronte a una telecamera, quello che invece faccio adesso. Mi ha aiutato tantissimo, soprattutto perché appunto io sono sempre stato un tipo molto timido, che si teneva le cose per sé, che non voleva mai parlare per paura di far soffrire anche gli altri, come i miei genitori, cosa sbagliatissima, perché è una cosa che dico sempre, che parlare con i propri genitori credo che sia una delle cose più belle e una delle cose da fare assolutamente quando si ha un problema, perché i genitori possono dare sempre una mano. Però in quel periodo avevo paura di parlare con i miei genitori, e per non tenermi tutto dentro me stesso ho deciso di tirare fuori le mie emozioni, le mie passioni, i miei pensieri, tutti dentro questo diario. Insomma, questa è anche una delle potenzialità che il web regala oggi. Grazie davvero, Luciano, complimenti. Ciao, buona domenica. Grazie. Ciao, ciao, Luciano. Grazie mille, ciao, ciao, ciao. Noi ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. Amore, ciao, io sono papà. Siamo nati qualche ora fa. Continuo a guardarti i piedini, a fare prove impacciate coi tuoi pannolini. Da mesi sento di amarti e ora ho quasi paura a toccarti. Faccio piano anche in casa, come se fossi un gigante. Ma piano piano per strada, adesso sorrido alla gente. Le tue mani e torno a giocare, i tuoi occhi e riesco a vedere. Il tuo cuore e posso sentire, di amarmi, ricominciare da un uomo a portata di Cristo. Chiudiamo questa puntata di Padri Eterni con uno dei tanti esempi in cui, insomma... paternità fa rima con creatività. Stiamo scoprendo quanto comunque la paternità, no, dia spunto, poi abbiamo visto per favole, per racconti, per libri, in questo caso per canzoni e soprattutto per uno spettacolo teatrale. È tutto da vedere questo spettacolo, ma questo è anche il suo titolo. In scena Vanessa Korn, la chitarra è quella di Luca Nobis e poi Martino Corti, interprete, cantautore e scrittore che, di canzoni, che è qua con noi. Ciao Martino. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Allora, dal 19 in prima nazionale allo spazio Avirex Tertulliano qui a Milano, portate in scena la paternità o forse la neopaternità. Che cos'è questo È tutto da vedere? È uno spettacolo che racconta la storia di due trentenni che scoprono di essere incinti, e tra flashback, flash forward e una pancia che li inchioda al presente. Quindi sì, paternità, ma anche maternità e quindi genitorialità, ecco. Però se ti chiedo cosa fai nella vita, tu rispondi il papà, abbiamo scoperto, no? Come ti presento? Papà a tempo pieno e poi artista a tempo libero negli spazi in cui riesco, ecco, a ritagliarmi per fare l'altra cosa che mi piace tanto. E cosa portate in scena? Qual è il cuore dello spettacolo? Ok, una nuova vita che arriva, però è la paura, è la tensione, è il ribaltamento delle priorità. C'è una sfumatura che comunque dà il là a tutta la trama? Sì. Innanzitutto quello che portiamo in scena non è tanto l'arrivo quanto l'attesa di questo arrivo, dove poi appunto inizia a stravolgersi tutto e diventa tutto un casino meraviglioso. E quindi portiamo questa attesa e all'interno di questa storia anche le relazioni, no? Quella che è la coppia, la relazione con se stessi, con gli amici, con i genitori, con i figli poi. E questo è un po' tutto il filo conduttore, oltre all'ironia, che poi è il modo di fare teatro mio e di Vanessa, quindi ci viene a sorridere profondamente, ecco. È molto vera, Martino, secondo me, la cosa che diceva prima Federico, no? Questa cosa che paternità fa rima con creatività, nel senso che la paternità è come se aumentasse lo sguardo, no? Ti fa accedere a uno spettro visivo che prima non riuscivi quasi a riconoscere. Mi piace molto questa cosa di questi padri che usano il filtro dell'arte, no? O della scrittura o della canzone, e dunque cercano di creare una distanza rispetto a quello che osservano, e in questa distanza riescono a vedere meglio e a vedersi meglio. Credo che sia una forma anche di rispetto, anche questa. A me è successo così, che per un anno, da quando è arrivata Mirtilla, perché si chiama così la nostra bimba di 2 anni e mezzo, non ho scritto niente, ma non perché mi sentissi bloccato, quanto perché consapevole di non avere ancora le parole per raccontare un mondo che io avevo sempre avuto davanti agli occhi, ma che non avevo visto senza gli occhi di Mirtilla, no? Certo. E poi dopo un anno mi è arrivata sta botta di creatività, dove tutto però andava in quella direzione lì, no? Ed è assolutamente così. Infatti mi piace dire che sia le canzoni che lo spettacolo sono state scritte a 4 mani, le canzoni da me Luca Nobis, lo spettacolo da me Vanessa Korn, però in realtà le mani erano 6, perché c'erano sempre le 2 di Mirtilla attaccate alle nostre. Sì, che ha fatto la supervisione sicuramente emotiva. E davanti alle tue canzoni come ha reagito Mirtilla? Nel senso che comunque le hai comunicato cose che forse con altri canali non eri riuscito a comunicarle? Guarda, non te lo so dire, nel senso che vabbè, Mirtilla ha 2 anni e mezzo, quindi iniziamo adesso a parlare. Lei, come tutti i bambini, sono il pubblico più bello e il pubblico più difficile, perché se non gli piace, non gli piace, no? Fa finta, ti dice sì papà, bello, bravo, una pacca sulla spalla. Però ecco, questa canzone dal tuo papà non gliel'ho ancora fatta sentire, mentre altre 2 o 3 le canticchiavo con la chitarra insieme a lei. E diciamo che una volta le ascolta, poi vabbè papà, andiamo a fare un gioco che... divertiti papà, però ecco, adesso sì, voglio, bravo, divertirmi, tu suona, io vado a fare il puzzle. È tutto da vedere, quindi dal 19 al 29 ottobre, ve lo ricordo, qui a Milano allo spazio Avirex Tertulliano, martinocorti.it per tutte le informazioni. Ciao Martino, buon lavoro, in bocca al lupo. Ciao ragazzi, grazie, viva il lupo. Ciao, ciao. Martino. È il momento dei saluti, un grazie a Paolo Corleone, oggi alla parte tecnica, Miriam Lucchetti che con noi ha scritto la puntata, a voi come sempre per essere stati in nostra compagnia, vi ricordo che potete farvi vivi con i vostri suggerimenti, le dritte, i commenti, ci trovate sul sito radio24.it, all'indirizzo di posta elettronica padrieterni@radio24.it o ancora nella nostra pagina Facebook, i Padri Eterni Radio 24. Ciao Matteo, hai preparato una lettera? Sì, abbiamo la nostra lettera della settimana. Questa volta sì, la dedichiamo niente meno che a Luke Skywalker. Voli altissimo. Sempre meglio. Lettera aperta a Luke Skywalker. Caro Luke, questa settimana è uscito il primo trailer del nuovo Star Wars, Gli Ultimi Jedi. Noi tutti ti ricordiamo ancora nella trilogia originale in cui, appena ragazzo, ha imparato a diventare un pilota esperto, allenato da Yoda e Obi-Wan Kenobi, fino a diventare lo Jedi più forte di tutti e salvare la galassia dallo strapotere dell'impero. Ma, soprattutto, ci ricordiamo di te come emblema del figlio che si confronta col padre. Darth Vader era indiscutibilmente una figura ingombrante, da cui era difficile affrancarsi, eppure tu ci sei riuscito, dimostrando che si diventa davvero figli proprio quando non si ha paura di tradire le aspettative dei padri. Ma anche lui ci ha insegnato qualcosa, che si diventa davvero padri non quando si incominciano a educare i figli, ma quando si capisce che la parte migliore, la vera opportunità di cambiamento, è accettare di imparare da loro. Ora ti ritroviamo dall'altro lato della barricata, maturo maestro barbuto e padre, ancorché spirituale. Le aspettative su di te sono altissime, non deluderci.